Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. La vicenda Bertolaso pone ancora una volta in evidenza che il potere conferito a un singolo non è il toccasana di tutti i mali, perché in tal caso il soggetto prescelto, lasciamo perdere se meritevole o meno, diventa nettare per le api. In una parola, scatena immediatamente gli appetiti di imprenditori disonesti che iniziano la fase di accerchiamento, facendo leva su vere o presunte debolezze del soggetto, per agganciarlo e farne un burattino nelle loro mani, allo scopo di ottenere vantaggi che non avrebbero potuto avere se si fossero confrontati con altre realtà, magari molto più capaci di loro. Chiunque sarebbe capace di costruire case in 6 mesi, di fronteggiare eventi franosi o l'emergenza rifiuti, se gli si conferissero poteri in deroga, con la possibilità di agire senza limiti di spesa, scegliere direttamente i professionisti, le imprese, i fornitori di beni e servizi, organizzare turni di lavoro di 24 ore, pagando straordinari, indennità notturne e festive e quant'altro, il tutto senza dover rendere conto dei costi. Io credo che sarebbe necessario ripristinare organi di controllo come i Coreco, l'autorità di vigilanza sulle opere pubbliche, e far gestire alla protezione civile solo le emergenze e non la normalità. Francesco. Sento tante persone che commentano le mancate dimissioni di questo o di quel politico o statista raggiunto da un avviso di garanzia da parte della magistratura. Orbene, la libertà è un valore che si esplica in tutte le sue forme, e quindi anche in quella di scegliere se dimettersi o meno di fronte a un caso del genere. A tutti i giustizialisti dico che non è giusto che una persona che ha lavorato tanto per raggiungere una posizione sociale debba mandare tutto in fumo solo perché un magistrato solerte sta indagando su di lui nel periodo elettorale. E il tutto senza una qualsiasi forma di risarcimento alla fine delle inchieste, nel caso risultasse innocente ed estraneo ai fatti. Sarebbe invece il caso di prevedere una sanzione disciplinare per il magistrato che ha infangato l'onore di una persona che poi è risultata innocente. I padri della Costituente tentarono di creare una Costituzione garantista per tutti e 3 i poteri dello Stato, introducendo l'immunità parlamentare senza prevedere le dimissioni nel caso in cui una persona fosse raggiunta da un avviso di garanzia. Gli invidiosi e i frustrati dell'altrui benessere sociale hanno invece permesso, negli anni 90, che venisse modificata la Costituzione per far sì che il giustizialismo sfociasse in tutta la sua forza. Saverio. Forse per la mia età, classe 1941, ritengo che la nostra società sia profondamente malata, priva di valori etici e morali, che viceversa erano sufficientemente radicati nella mia giovinezza, pur nelle macerie di una guerra perduta e nell'epilogo della guerra civile. Pertanto, diversamente dal sentire corrente, che afferma che l'imputato sia innocente fino a sentenza definitiva, sono tendenzialmente colpevolista giustizialista. Il danno alla società sarebbe minore. Meglio un innocente sotto processo e i delinquenti in galera, rispetto a tutti liberi. Ora le leggi non tutelano il cittadino onesto, ma il potente e il delinquente. Nel caso di Bertolaso, invece, non mi allineo a questo modo di vedere, perché voglio sperare, e magari anche illudermi, che almeno lui, figura carismatica che affronta e risolve i problemi anche violando le procedure ipergarantiste pensate per giustificare i nulla facenti, sia rimasto incorrotto. È una bandiera che, prima di essere ammainata con ignominia, deve godere di tutte le garanzie. Se dovesse essere dimostrata l'ipotesi che anche Bertolaso è corruttibile, per i giovani di questo paese non ci sarebbe più alcuna speranza di futuro onesto. Augusto. Premesso che un indagato è innocente fino a prova contraria, di sicuro nella nostra protezione civile c'è del marcio e, a quanto pare, pure molto. Chi era quella giornalista che diceva che noi siamo il meglio del meglio nella gestione delle catastrofi? Di sicuro siamo i migliori a crearle. Non c'è giorno che non venga aperta un'inchiesta su certi soggetti che cercano di depredare le casse dello Stato. Oltretutto non paga mai nessuno, come al solito. Brava Italia! Ad Haiti staranno facendo gli scongiuri per lo scampato pericolo e negli Stati Uniti si faranno delle belle risate. Giampaolo. La magistratura ormai è la vera protagonista dei poteri in Italia. sempre più politica e sempre meno attenta al suo primario compito di essere al servizio della popolazione. È evidente il notevole sbilanciamento degli equilibri che l'abolizione dell'immunità parlamentare ha portato anche nel caso Bertolaso. Mario. Sono letteralmente sconcertato per la vicenda Bertolaso, al quale va tutta la mia solidarietà. Mi domando però se possa esserci una correlazione tra questo scandalo e le accuse mosse da Bertolaso qualche settimana fa agli Stati Uniti per la gestione dell'emergenza ad Haiti. Mi auguro di no. Alessandro. Il signor Bertolaso, comunque ammirevole per la sua infaticabile attività, è stato a dir poco imprudente nelle sue frequentazioni. Chi ha mandati così ampi deve essere ancora più accorto di chi deve seguire regole strette o strettissime. Frequentare al di fuori delle sedi consone personaggi con i quali si hanno rapporti di lavoro e che per di più vengono pagati con i soldi dello Stato sarebbe criticabile anche se Bertolaso fosse innocente. Comunque è noto che quando si parla di inchieste della magistratura pare sempre che questa agisca per chissà quali input, spesso in coincidenza con le elezioni. Non dimentichiamo però che, come tutte le altre, anche questa inchiesta parte da una denuncia, circostanziata e precisa, oppure da un reato palese. Altrimenti le inchieste e le indagini non partono. Nei giorni scorsi sono stati notificati gli avvisi di garanzia e sono partiti gli arresti, ma l'inchiesta durava da tempo. L'unico fatto negativo è che, come al solito, vengono scaraventati sulle prime pagine dei giornali tutti i mostri e, come si sa, l'inchiostro a stampa provoca macchie difficili da lavare. Arrigo. Caro direttore, non le sembra che ormai ci siano segni evidenti di quello che potremmo chiamare la decadenza di una società? Tra scandali, vizi privati, corruzione e nuove tangenti, ormai non passa giorno senza che vi siano notizie ben poco degne di un paese corretto e civile. Il caso Bertolaso è solo l'ultima goccia, l'ultimo esempio di comportamenti formalmente irreprensibili, ma che poi si rivelano tutt'altro che corretti. Filippo. Gentile Filippo, non vorrei solo richiamare la Costituzione per sottolineare come nessuno possa essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva, ma vorrei anche mettere in rilievo che molti processi avviati negli anni scorsi con grande clamore si sono poi risolti con significative assoluzioni. Certo, ci sono state anche condanne e sono stati accertati gravissimi episodi di corruzione. E allora la domanda è: siamo di fronte a un sistema malato, a una società in cui gli interessi privati prevalgono ancora costantemente sul benessere collettivo? Non ci può essere una risposta netta, ma vorrei fare due riflessioni. La prima: nella società italiana sono ancora per fortuna una netta maggioranza le persone che fanno fino in fondo il proprio dovere, che lavorano e che sacrificano anche volontariamente il proprio tempo per gli altri. La seconda riflessione: c'è certamente un preoccupante calo del senso di legalità. E in questo senso, l'esempio dei politici non è tra i più edificanti, anzi i loro comportamenti non aiutano certo a diffondere ideali di correttezza e moralità. Eppure, il senso della legalità è una delle condizioni fondamentali del vivere civile. E pare disarmante che questo senso di legalità venga messo in dubbio dalla stessa magistratura con la lentezza dei processi o la diffusione incontrollata di intercettazioni. Detto questo, sullo sfondo resta il caso Bertolaso, un caso tanto più grave in quanto coinvolge una persona e un gruppo di lavoro che operano in prima fila e finora con grande efficienza nelle situazioni di emergenza. Non è questo certo il momento di emanare sentenze, ma c'è una cosa che lascia amareggiati. Ancora una volta, i giudizi della politica si sono divisi tra innocentisti e colpevolisti. I primi tutti sul fronte del governo, i secondi tutti nell'opposizione, ancora una volta vestendo la legalità con i colori della politica e non rendendo un buon servizio né alla legalità né alla politica. Quella del ritorno al nucleare rischia di essere la sfida letale del PDL. Credo infatti che nessun candidato governatore del centrodestra sarà tanto folle da dichiararsi contento di ospitare una centrale o un deposito di scorie nel proprio territorio. Se il centrosinistra saprà giocare bene questa partita giocata sull'ambiente, ma pure sulla paura, sarà un incredibile cappotto alle regionali. Se il governo Berlusconi andrà avanti sul nucleare, opzione energetica fuori tempo e ormai anche poco conveniente, piuttosto che nell'incrementare le fonti alternative, sarà la sua fine. Michele, Bari. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. continuate a scriverci